Notizia nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.43. Giovedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia ha un nuovo presidente, è Philip Turn Valsassina, con azienda cerealicola tra Medeire e Manzacco. Con lui, nel pezzo di apertura della puntata odierna, parliamo dei punti di forza e debolezza dell'agricoltura nostrana, tentando di individuare soluzioni e valorizzazioni. A seguire il corsivo di Enos Costantini, che traccia la parabola politico-demografica della figura dei contadini nella nostra società, che li vede ora relegati ad un peso sociale che fluttua attorno al 2% della forza lavoro. Situazione e possibili rimedi ai danni causati dalla fauna selvatica nella rubrica delle normative, mentre Sandro Menegon conclude la sua monumentale storia dell'allevamento bovino in Friuli Venezia Giulia. Altro addio quello di Gabriele Caiazza, che ha portato a termine la storia della grappa, forse l'unico distillato che possiamo totalmente chiamare friulano. La rubrica dei giardini ci porta invece in un viaggio sulle sponde dello Stella a conoscere il Parco Otellio, prima dell'andamento dei mercati, delle previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Philip Turn Valsassina, 41 anni, con azienda agricola di seminativi tra Medea e Ziracco di Remanzacco, da 2 settimane è il nuovo presidente di Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia. A lui subito chiediamo, dal vostro osservatorio, quali sono i punti di forza e di debolezza dell'agricoltura nostrana? Il punto di forza al momento è ancora la viticoltura. Il seminativo è in una fase di crisi che ormai perdura da un po' di anni, soprattutto causato dal fatto che abbiamo dei prezzi che sono poco remunerativi, e questo anche perché la nostra regione si trova in una posizione un po' svantaggiata e in regione abbiamo poca trasformazione di questi prodotti agricoli che vengono generalmente poi lavorati nelle regioni limitrofe. In mezzo ci sta la zootecnia con tutti i suoi problemi. Perché è la crisi della zootecnia che poi porta di conseguenza alle difficoltà nei seminativi, visto che è la zootecnia il primo utilizzatore dei nostri prodotti agricoli. Quali secondo voi le prime ricette necessarie per uscire da questa impasse? Abbiamo bisogno che la regione diventi un punto focale e decida tramite i mezzi che ha a disposizione, come può essere il PSR, di dare una mano importante all'agricoltura, dando anche un certo indirizzo. Questo lo può fare sia per i seminativi, lavorando magari su quella che è la struttura attuale dell'ERSA, e sulla viticoltura per quanto concerne le DOC. Apriamo un piccolo capitolo sulle battaglie recenti che avete portato avanti anche voi. Per esempio, siete ancora favorevoli all'OGM? Io credo che l'OGM ormai è una tecnologia superata, ma in realtà la tecnologia va avanti molto più veloce di quello che noi riusciamo a fare in campo. E le tecnologie moderne ci sono e prevedono l'utilizzo di cisgenetiche che potrebbero dare delle risposte all'agricoltura, ma che al momento la politica non è ancora in grado di comprendere. Rapporti con il sistema bancario, che tante volte ha i cordoni della borsa un po' strettini. Ma io credo che lì in realtà al momento la situazione non sia così problematica, perché la regione nell'ultimo periodo ha deciso di usare molto la legge 80, che è questa che finanzia le aziende agricole. Però diciamo che al momento è lo strumento principale che hanno, se non l'unico, le aziende agricole. Cosa chiedete che possa essere inserito nel nuovo PSR che si sta andando a formare? Sicuramente ci vuole non solo un contributo, ma una progettualità a lungo termine per poter risolvere vari problemi che abbiamo all'interno delle nostre campagne. Individuate anche voi tra i vostri nemici storici la burocrazia? Sicuramente la burocrazia è uno dei problemi principali, ma non penso solo dell'agricoltura, ma di tutti i settori produttivi in Italia. Se avesse la bacchetta magica, quale primo miracolo farebbe? Sicuramente al momento i nostri problemi arrivano dall'esterno. Io penso che i nostri problemi sono legati alla selvaggina che è andata fuori controllo per una politica che era incentrata sulla protezione, non sulla gestione. Abbiamo problemi, e questo per pensare agli ungulati, ma in realtà si va anche a pensare soltanto al problema delle cimici che stanno flagellando tutto il settore dell'ortofrutta. L'irrigazione è un altro problema che ci affligge, perché noi eravamo abituati d'estate sì ad avere lunghi periodi di siccità, ma non erano legati a temperature alte come abbiamo in questo periodo. Sostenibilità ambientale, cosa ne pensate? Questo è un problema molto delicato. Non crediamo che la lotta biologica sia la soluzione a tutti i problemi. Lì noi abbiamo bisogno assolutamente di ricerca, perché soltanto la scienza può dare la soluzione ai nostri problemi. Io sono convinto che oggigiorno forse l'utilizzo di fitofarmaci viene fatto con una certa leggerezza, ma l'idea che siano il male non lo credo proprio. La parabola politico-demografica dei contadini è al centro del corsivo di Enos Costantini, che analizza come dalla storica irrilevanza sociale conquistarono un peso elettorale per ritornare nell'oblio con la decrescita che oggi li vede intorno al 2% della forza lavoro complessiva. I contadini, questa millenaria razza, sono sempre stati vituperati, sinonimo di burino, fuori porta, cafone, malvestito e letterato. E soprattutto per millenni hanno sopportato il peso di chi li dominava finanziandone i lussi e le guerre, ricevendo in cambio miseria, patimenti e morte. Le poche rivolte contadine sono state represse nel sangue. Erano la maggioranza i contadini, ma non avevano peso politico, e altri segnavano i destini economici della loro attività. Nel secondo dopoguerra, con la democrazia e il suffragio universale, i contadini, che erano ancora numerosi, sono diventati una forza politica. Hanno così raggiunto miglioramenti che nei tempi precedenti sarebbero stati impensabili. Ma qualcosa è sfuggito loro di mano. Il numero. La politica dello Stato italiano e poi quella europea ne hanno tanto assottigliato gli effettivi che da almeno il 40% della forza lavoro ora sono il 2-3%, con una proporzionale caduta del peso politico. Il loro annientamento demografico è avvenuto nella indifferenza, se non nel plauso dei più, sindacati e classe politica compresi. Come se un sindacalista della FIOM fosse contento del crollo numerico dei metalmeccanici. I pochi contadini rimasti producono commodities, non alimenti. Gli alimenti sono divenuti arma economica e arma politica dell'industria e della GDO. È nostro parere che gli alimenti debbano essere arma economica e arma politica di chi li produce, cioè di quelli che una volta erano detti contadini. Ecco un bel compito per le vacanze destinato a chi pensa che si possa ancora ragionare di politica. Ma forse anche chi pensa di politica è una razza in via di estinzione come i contadini. Sono sempre più frequenti le segnalazioni di danni alle coltivazioni da parte della fauna selvatica. Facciamo il punto insieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Sì, la fauna selvatica ha sempre procurato danni alle coltivazioni e una certa soglia di danno è fisiologica e inevitabile, specie nei territori marginali. Il problema è che negli ultimi anni la proliferazione di certe specie è stata tale che non solo i danni alle produzioni agricole sono diventati sistematici e insostenibili, ma anche molte specie sono diventate un problema in ambito urbano. Quali sono attualmente le specie più invasive? Tra i mammiferi sicuramente il cinghiale, che ormai è diffuso su tutta la pianura friulana. È un grosso problema per le coltivazioni, per la circolazione stradale, oltre che essere potenziale vettore della peste suina africana, un virus già presente nei paesi dell'est che se dovesse entrare in Italia metterebbe in ginocchio tutta la filiera del San Daniele. Comunque nelle vigne e nei frutteti fanno grossi danni anche caprioli e cervi, specie lungo la zona collinare, mentre i danni da nutria sono in regressione, ma ricordiamo che è stata necessaria l'adozione di un piano di eradicazione da parte della regione. E tra i volatili? Gazze e cornacchie anche quest'anno hanno provocato danni ingentissimi su mais, soia e girasole. imponendo in molti casi di riseminare tutto. Poi ci sono i colombi che affollano i tetti delle stalle, capannoni, fienili, granai e sicatoi. A parte la fastidiosa sottrazione di derrate, sono pericolosi perché possono trasmettere anche gravi patologie all'uomo. Nella fascia costiera invece abbiamo i cormorani che attaccano gli allevamenti di pesce. Tutti dicono più o meno che serve una modifica della legge sulla caccia. Da parte delle organizzazioni agricole sono in atto diverse iniziative a livello nazionale per aggiornare la legge CEO 57 del 92 che disciplina l'attività venatoria e che 30 anni fa guardava la fauna selvatica solo come patrimonio da tutelare, mentre oggi è necessario gestire. Ma a livello locale ci sono anche margini di azione attraverso gli strumenti previsti dal piano faunistico regionale, anche con specifici piani di controllo. E per chi subisce danni ci sono indennizzi? In teoria la legge regionale 6 del 2008, l'articolo 10, prevede forme di risarcimento per i danni provocati alle coltivazioni. Il problema però sono le risorse disponibili e troppo spesso in passato gli agricoltori rinunciavano a fare richieste di indennizzo perché sapevano che non c'erano fondi sufficienti. Invece è fondamentale denunciare, fosse altro per consentire all'amministrazione regionale di quantificare correttamente i danni. La legge poi prevede anche contributi per la realizzazione di opere di prevenzione come recinzioni elettriche, dissuasori acustici, eccetera, ma è evidente che questo tipo di interventi non è sostenibile per vaste estensioni, ma si adatta solo a piccoli appezzamenti e per colture ad alto reddito. Come accennato nella scorsa puntata della rubrica della pastorizia e la zootecnia, oggi con Sandro Menegon ritorniamo nella zona alpina e prealpina. La Seconda Guerra Mondiale, oltre a condizionare i progetti di selezione, provocò nella zona montana una sensibile contrazione del bestiame dovuta da un lato alla distruzione di interi paesi e alle numerose razzie e dall'altro alla ridotta disponibilità di foraggio utilizzato anche dai cavalli a seguito delle truppe cosacche. Potremmo anticipare che, superata la fase di emergenza postbellica, dal secondo dopoguerra la bruna alpina diventò razza egemone nella zona in esame. E cioè? In Valcellina, gli organi tecnici della provincia, in accordo con la maggioranza degli allevatori, programmarono una graduale sostituzione del locale bestiame mantello grigio. Nel 1955 si tenne a Clauto una rassegna bovina con circa 200 capi provenienti dai comuni della Valle e da Montereale. Nella lista degli animali premiati compaiono ancora femmine grigie e meticce, ma maschi solo di razza bruna. E nella rimanente montagna della destra tagliamento? A metà degli anni 50, nelle mostre zootecniche che si svolgevano a Trevesio, la maggioranza delle vacche presenti era di razza bruna e di buona genealogia, tanto da segnare il punto di partenza del locale nucleo di selezione. Concludiamo con la carne. In carne si aprì una discussione su possibili alternative alla bruna alpina e si propose un referendum. Il dottor Marchetti mise tuttavia in guardia gli allevatori sui rischi del ritorno ad una popolazione eterogenea. I sindaci dei comuni e le rappresentanze del Comitato della Liberazione Nazionale della Carnia dichiararono tuttavia l'intenzione di mantenere la bruna alpina sul territorio. A tal fine vennero ricostituiti e ampliati i nuclei selezione e ripresero le mostre zootecniche. Dal secondo dopoguerra la razza norica perse progressivamente d'importanza ai nuovi confini regionali. Riassumendo, situazione complessiva nella zona montana e pedemontana verso la fine del secolo scorso? Bruna egemone. C'erano anche pezzate nere, burliner, pustertale, rimantelli incerti, codulus e beletes, ma a partire dal secondo dopoguerra penso non sia più una questione di razze ma di numeri. Ricordando Leonardo Zanier, una chiasa, dos chiasas, dis chiasas hierades, e direi una stala, dos stalas, dis stalas hierades. L'avvio verso la fine di un mondo fatto di vacchie, slat, spogne e formali e di immani sacrifici. Franca Merluzzi, oggi per la rubrica dei giardini, ci parla del parco di Villa Savarognan Otellio ad Aris di Rivignano, sulle sponde del fiume Stella. Lo Stella è un fiume di risorgiva che raccoglie acque affioranti dal suolo della bassa pianura friulana. Come il tagliamento, non è canalizzato. Scorre tra paesaggi di grande interesse, zone umide, torbiere, residui di boschi planiziali, prati stabili e arriva fino alla laguna di Marano. Oltre a conservare un patrimonio unico di varietà vegetali e faunistiche, il territorio è costellato da vecchi mulini, casali, ville, castelli, case coloniche, Cane Vons e Casoni Lagunari. Ad Aris di Rivignano, in uno dei punti più attraenti di tutto il corso dello Stella, che qui forma un'ansa, si affaccia, visibile da lontano, con la sua facciata rosso mattone, la villa che fu dei Savornian e degli Ottellio. A fianco si estende un parco di 11 ettari, la cui impostazione all'inglese risale all'Ottocento. Allora comprendeva frutteti e vigneti con annesso vivaio per le viti. Ora è una distesa di prati con boschetti e alberi secolari, soprattutto lecci, querce, frassini e conifere. Il parco è sempre aperto e liberamente visitabile. A piedi è una bella passeggiata, ma si può attraversare anche in bicicletta e proseguire lungo itinerari segnalati. Ad Aris convergono sentieri naturalistici, piste ciclabili e corsi d'acqua navigabili. La Proloco organizza discese in canoa da diversi punti dello Stella. Dopo 30 anni di abbandono, il contesto di Villa Ottellio ricomincia a vivere. In attesa di restauro, gli spazi esterni e i magazzini del sale, che al tempo dei Savornian arrivava da Venezia con piccole barche, vengono riaperti in occasione di eventi. Qui si è tenuto il convegno che ha rilanciato il progetto del Parco dello Stella da Codroipo a Lignano. Si consiglia una visita al vicino acquario delle specie di pesci d'acqua dolce. Ogni anno conta 16.000 presenze, dove si vedono una 40 di specie e si può seguire un percorso didattico sopraelevato sull'acqua. Ancora una suggestione. Davanti alla villa, una lapide ricorda che in questi luoghi ancora incantati si consumò lo sfortunato amore tra Lucina Savornian e Luigi da Porto, ovvero Romeo e Giulietta. Pare che Shakespeare abbia tratto ispirazione dalla novella scritta dall'infelice Luigi. Ad Aris, e non solo, ne sono convinti. Gabriele Cajazza con questa puntata chiude la serie che abbiamo voluto dedicare alla storia della grappa, un distillato che ha saputo conquistarsi un posto al sole. Quella che nel passato era reputata il parente povero di molti distillati e liquori, spesso più celebri, per di più ampiamente snobbata dai benpensanti, malgrado avesse sempre goduto di un'ottima reputazione fra medici e farmacisti, è oggi fra le cosiddette eccellenze non solo dell'agroalimentare made in Italy, ma anche e soprattutto dell'agroalimentare fatto in Friuli. Qui come altrove, infatti, è oramai ben introdotta anche negli ambienti di maggior prestigio, finendo per staccarsi dal vecchio cliché, pur nel rispetto delle rigide regole su cui vigilano i funzionari statali eredi dell'ex ufficio tecnico imposti fabbricazione, a partire dal fatto di essere ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce. E su questa affermazione si conclude il nostro viaggio radiofonico, nella storia della grappa friulana, iniziato nel gennaio del 2018. Fatalmente, per quanto sia documentato, nessun resoconto storico può né potrà mai contemplare tutto ciò che si potrebbe dire su un determinato argomento. Per esempio, in questo excursus sono stati via via menzionati i nomi di diverse aziende che nel tempo hanno distillato grappa in regione, ma ne mancano senza alcun dubbio moltissimi, per non parlare delle sedi di distilleria extraregionali o delle aziende agricole produttrici di grappe, presente un po' dovunque. Alla fine del nostro breve e inevitabilmente incompleto itinerario, attraverso la storia e le storie di un bene culturale, tanto noto nel vasto e variegato panorama della produzione di bevande alcoliche contemporanee, quanto poco studiato nelle sue origini vicende, tranne rari casi per i quali ricordiamo almeno Gaetano Perusini, Valerio Rossitti e Alessandro Sensidoni, si può peraltro gioire del fatto che attualmente, fra i giovani, la grappa sia vissuta non come superalcolico da sballo del sabato sera, ma come bevanda da assaporare lentamente, a piccoli sorsi. Per concludere, possiamo allora garbatamente salutarci, parafrasando il motto di una nota casa di profumi. Se a Parigi distillano felicità per le narici, da poco più di 50 anni, in Friuli si continuano a distillare gratificazione anche per gli occhi, ma soprattutto per il palato, e da oltre mezzo millennio. Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento diversificato venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro al quintale, va esclusa. La soia tra 32,40 e 32,90. L'orzo, peso specifico 60-63, tra 15,30 e 15,80. Il frumento tra 16,90 e 17,20. Rispetto ad un anno fa, mais e frumento sono diminuiti di 70 centesimi il quintale. Mercato attivo all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in movimento. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero sono pagate all'ingrosso tra 1,80 e 2 euro al chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 1,60 e 1,80. Le melanzane tonde tra 1,20 e 1,40. I pomodori italiani in grappolo ai finocchi tra 1,30 e 1,50. Il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce tra 2,20 e 2,30. I peperoni gialli e rossi tra 1,40 e 1,80. Le patate novelle tra 0,70 e 1,10. I kiwi tra 2,20 e 2,40, i meloni tra 0,70 e 1,20, le angurie tra 0,45 e 0,65, pesche e pesche noci tra 0,90 e 1,80, le albicocche tra 1,80 e 1,50. Segno instabile nel settore della pesca, con prezzi variabili per le temperature climatiche molto calde. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 23 a 33 euro al chilo, IVA esclusa. Le orate da 8 a 18, le sogliole da 7 a 23, le canocce da 5 a 12, le seppie da 10 a 14, i laterini da 10 a 12, i gamberetti di laguna da 15 a 20, i cefali da 1 a 5, le manzancolle da 18 a 24, i calamari da 30 a 32 e le cappe pesante da 10 a 13 euro al chilo. Domanda sostenuta nel settore del latte naturale di vacca, Franco Stalla, compresa la refrigerazione, viene quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, scambi con sostanziali variazioni nel comparto degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 1,16 e 1,18 euro al chilo, tacchini maschi 1,57 e 1,59, le faraone tra 2,10 e 2,14, le anatre tra 2,20 e 2,24, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 1,38 e 1,44, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 12,60 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. La settimana scorsa ci ha regalato gran caldo con temperature di 4-5 gradi sopra normale, valori massimi che hanno toccato e superato in pianura i 36 gradi, temperature che 20-30 anni fa erano estremamente rare. Ora sono già diventate la consuetudine in diverse giornate dell'estate friulana. Venerdì, dopo due giorni di afa fastidiosa, si sono sviluppati forti temporali con rovesci di pioggia intensa e vento forte, specie sulla costa, dove si sono misurati, fra Lignano, Grado e la costiera triestina, traffiche anche oltre i 120 km orari, valori molto rari in passato. Oggi la depressione sta portando ancora notevole instabilità, ma già stasera avremo un miglioramento. Domani avremo cielo da poco nuvoloso variabile. Saranno possibili dei temporali nel pomeriggio sera sulla zona montana, che potrebbero poi interessare successivamente, anche se con minore possibilità, anche la pianura e la costa. Da martedì e giovedì si intravede una situazione più stabile con una rimonta dell'anticiclone africano. Avremo cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti, dove nei pomeriggi saranno sempre possibili locali rovesci temporaleschi. L'atmosfera nei primi giorni della settimana rimarrà ancora piuttosto umida e seppure che il caldo sembra presentarsi più attenuato nei valori massimi rispetto alla settimana precedente, con valori su pianura e costa intorno a 30-32 gradi, probabilmente rimarrà piuttosto afoso. Venerdì è probabile che l'anticiclone si ritiri e le correnti umide atlantiche prendano il sopravvento con un peggioramento, ma ricordando come sempre l'importanza di seguire giorno per giorno l'aggiornamento delle previsioni, auguriamo una buona settimana a tutti gli ascoltatori. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: se al pluf di avosta, al pluf grane most, ovvero se piove durante il mese di agosto, piove grano e mosto, quindi abbondanza. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica 1 settembre. Vita nei Campi infatti interrompe le sue trasmissioni durante il mese di agosto e vi lascia con un caldo augurio di buon estate e piogge di gran e most. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.